bene. Carole intorno al sole tremar ruggè, d'egli strugge, ora sterile, or fecondo, ecco il mollo. Sul suo grosso, antico addosso, veo la schiata, e sozza e matta, fiera vile, riasottile, fiera vile, riasottile, chiaro niola si divora, dalla cima si lo al fondo, del reo no. Satana riso e scherno e a lei l'inferno scherno e riso il paradiso oh per Dio che rido anch'io oh per Dio che rido anch'io